L'ex comandante dei carabinieri di Chiesa Valmalenco è indagato per aver utilizzato alcune ore di straordinario per verificare avvistamenti di UFO. Lui si difende: facevo solo il mio dovere. È accusato di aver truffato lo Stato per un centinaio di euro di straordinari che avrebbe impiegato per verificare le segnalazioni di UFO alieni che arrivavano dai cittadini. E per difendersi, Alessandro Di Roio, per 25 anni comandante dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco, ha portato in tribunale un dossier con le presunte prove degli avvistamenti. Ho solo fatto il mio dovere, sostiene l'ex militare, congedato un anno fa per malattia. La scorsa settimana, un altro processo in cui era imputato per diffamazione nei confronti dei suoi ex superiori si è chiuso con il non luogo a procedere. Io facevo servizi normali di perlustrazione e visto che la gente mi segnalava queste anomalie nei servizi, controllavo se c'era qualcosa di strano in giro. Segnalazioni come quella di Luciano. Sì, sono stato forse anche uno dei primi che ha avvistato e ho registrato, fatto un video, un piccolo video con la mia telecamera. Si vedeva una luce molto, molto forte che si muoveva per un bel po' di tempo. In paese quasi tutti credono alla buona fede dell'ex comandante, non tutti invece agli alieni, considerando anche che lo spazio aereo sopra la Valtellina viene utilizzato anche per addestramenti militari. Sara Grattoggi, TGR Lombardia.